America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, cominciamo con una notizia che preoccupa un po' l'America. Perché? Beh, perché il presidente Barack Obama questa sera parte per un viaggio in Kenya. Un viaggio che finora era stato caratterizzato soprattutto da un forte contenuto emotivo, perché Obama andrà a visitare il villaggio dove è nato e cresciuto il padre. Ricordiamolo, Obama ancora non si era recato. Ma che è successo? Che le autorità keniote, le autorità aeroportuali per essere precisi, hanno divulgato l'orario di arrivo del presidente, che invece è coperto da assoluto segreto, per questioni ovviamente di sicurezza. E il Kenya, sappiamo, è stato un paese oggetto di attacchi terroristici, quindi l'ultima cosa che si vuole è informare un potenziale nemico dell'arrivo dell'aereo presidenziale. Insomma, è stata un po' una gaffe, si sta cercando di capire se cambieranno gli orari, naturalmente non lo saprà nessuno fino all'ultimo momento. Ne riparleremo domani, così vi racconterò un po' il contenuto di questo viaggio, poi andrà anche a Addis Abeba. Ma oggi vorrei sentire Obama su un argomento di cui abbiamo parlato abbastanza spesso nelle ultime settimane. Sentiamo. Today I can announce that the United States has agreed to formally reestablish diplomatic relations with the Republic of Cuba and reopen embassies in our respective countries. Barack Obama di nuovo su Cuba, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, ne abbiamo parlato nelle settimane passate, nei mesi passati, insomma Cuba domina. È stata già riaperta l'ambasciata cubana a Washington, grandi celebrazioni. Il 14 di agosto invece riaprirà l'ambasciata americana a L'Avana. E in mezzo che succede? Vorrei una singola per qualche giorno. Vista sul mare? Sì, grazie. Ecco, ho fatto ascoltare alcuni brani estratti dalla miniserie Isola Margherita. Isola Margherita è una serie televisiva, 4 episodi, che saranno trasmessi in prima visione TV da Rai Premium nella fascia pomeridiana intorno alle 15, 31 luglio, 3, 4 e 5 agosto. Dunque, esattamente a metà tra l'apertura dell'ambasciata cubana a Washington e l'apertura dell'ambasciata americana a Cuba. Ecco, devo dire, consentitemi una piccola riflessione personale. Cuba bellissima, ci sono stato varie volte e famosa. Ma arriviamo al punto, dov'è il collegamento tra questa miniserie e Cuba? È che Cuba, vi dicevo, non solo le grandi storie, non solo la grande fantasia, i mojito e così via, ma anche una grande storia cinematografica. Ci sono maestranze, ci sono registi, ci sono operatori, e questa miniserie Isola Margherita è stata girata interamente a Cuba, con una particolarità. La particolarità è che è stato girato, la bellezza di 20 anni fa. Dopodiché questa serie televisiva non è mai uscita. Perché? Vari problemi. La Tiber cinematografica ha chiuso, molti dei dirigenti Rai sono andati in pensione, ci sono stati dei problemi di programmazione, fatto sta che a un certo punto la miniserie non è mai uscita. Adesso, proprio grazie al fatto che Cuba è sulla cresta dell'onda, tornata all'attualità, è stata ripescata, questa miniserie è messa in programmazione. Ecco, io con me ai microfoni di America 24 Renzo Badolisani, il regista di questa miniserie. Buongiorno Renzo. Buongiorno Mario, buongiorno agli ascoltatori. Eccoci Renzo. Allora, intanto, ma che sensazione ti fa che dopo tanti anni questa tua opera viene ripresa e rimessa in prima visione? È una sensazione, come ti puoi immaginare, molto piacevole, e io sono molto grato naturalmente al presidente Obama in questo senso, perché malgrado non sia un cittadino americano, ma diciamo, ha riaperto forse in un certo qual modo, se non direttamente, indirettamente, un interesse verso questa produzione un po' particolare, proprio perché è stata la prima, credo, al momento mi risulta l'unica, girata a Cuba. Come è stato girare a Cuba? Come vedi tu, che ci sei stato, questo periodo di grande transizione, di grande apertura? Certamente questo momento, da quando insomma Obama ha riaperto le relazioni con Cuba, sicuramente è un momento che ha fatto in modo che questo lavoro tornasse, diciamo, di strettissima attualità, ecco, proprio perché, anche per questo motivo, e mi faceva pensare anche a me oggi che in fondo anche la Rai a modo suo sta contribuendo, diciamo, un po' al, chiamiamolo, di gelo, ecco, tra questi due paesi, che chiaramente per chi ha avuto a che fare con Cuba. Come ti sei trovato, tu che hai lavorato in Italia, Cinecittà, insomma in vari ambienti anche internazionali, con i cineoperatori, con i tecnici, con le maestranze cubane? È stata una lavorazione piuttosto lunga, perché siamo stati lì circa 7 mesi e quindi all'inizio sicuramente il mio impatto è stato, come dire, di un regista perplesso, ma mi sono dovuto ricredere. Perplesso dico perché ovviamente l'isola ha tanti problemi, quindi mi chiedevo come potevamo fare a ricreare un'immagine di un Latin America che io volevo fosse tra virgolette da cartolina. In realtà i cubani però, al di là di queste, diciamo così, apparenze che possono sembrare a volte a un occhio superficiale magari così, diciamo, poco canoniche, ecco, invece si sono arrivati veramente super professionisti, super professionali, ecco, quindi... Ecco, diciamo, c'erano gli attori italiani, beh, molto conosciuti, Deborah Caprioglio, Alberto Gimignani, quindi, diciamo, attori di calibro, però c'erano anche attori cubani molto conosciuti sia fuori che a Cuba, come, non so, Jorge Peguroia, Alina Rodriguez, Larisa Vega, Enrique Molina, quindi c'è molto contributo cubano a questo tuo lavoro. Assolutamente, direi quasi totalmente, nel senso che a parte me e a parte i due attori, poi c'era un delegato di produzione, insomma eravamo in cinque, tutto il resto, calcola che la troupe cubana spesso ha raggiunto livelli di numero come 150, con gli attori magari 170 persone, quindi era un po' un esercito. Quindi, raccontaci in tre parole la trama. La trama è molto semplice, diciamo le trame, perché sono quattro episodi che hanno ognuno una storia compiuta, che si apre e si chiude, pur avendo poi gli stessi protagonisti, ovvero sia i due attori italiani, in cui lei fa una ragazza sudamericana e lui fa un giornalista che viene in Sud America per fare queste inchieste per il suo giornale in Italia, e i temi variano, diciamo, sono temi che passano dal commercio clandestino di pesce pregiato a ritrovamenti archeologici nella giungla, oppure c'è uno che parla di gerarchie nazisti che avevano ripiegato in Sud America, insomma sono tematiche, diciamo, avventurose e poliziesco. Che però in questo caso, proprio perché sono stati fatti a Cuba sullo sfondo, diciamo così, acquistano un valore un po' particolare, perché in effetti la serie, questi filmati, questi quattro episodi sicuramente hanno questo valore in più. Il protagonista è un giornalista, ma riusciamo a fare magari una riedizione di questa serie e magari l'inviato, invece di venire dall'Italia, un giornalista italiano che va dagli Stati Uniti? Direi assolutamente sì. Avrei già un soggetto in mente e mi auguro fortemente che la possiamo fare insieme. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre con me i microfoni, America 24, Renzo Baddolisani, regista italiano che sta per essere lanciato sulla Rai con una miniserie, Isola Margherita. Renzo, una canzone, come dire, che rispecchi un po' Cuba, l'America, cosa ti viene in mente? Cosa potrebbe essere? Ma credo sicuramente Gloria Estefan, o Estefan come si pronuncia, con il pezzo che è un classico poi che si intitola Conga. Gloria Estefan, perfetta. Gloria Estefan, cubana, nata a Cuba, vive a Miami, grande star americana, di Gloria Estefan, Conga! Come on, shake your body, baby, do that conga. I know you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. I know you can't control yourself any longer. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.